siamo una serie appunto di persone, professionisti della relazione d'aiuto, qualcuno ci chiama adesso anche professionisti conversazionali, siamo professionisti del dialogo con l'altro, educatori, psicologhe, neuropsichiatria infantile, assistenti sociali. In questo lavoro di rete che coinvolge tutti quanti, cerchiamo veramente di costruire quelle condizioni che permettono alle persone, in questo caso nel mio lavoro gli adolescenti, di potersi rappresentare al meglio, di poter venire a capo del pensiero che quella fragilità che pensano o che hanno sia diventi una risorsa. Questo è un po' il lavoro che noi facciamo dentro questo luogo, che appunto è Vita Vergata. Noi accogliamo 16 ragazzi e ragazze, in questo momento abbiamo una situazione paritaria, 8 e 8. E vi ho detto 14-18 anni. Quando i ragazzi vengono al nostro servizio, inviati dal servizio sociale, sono ragazzi che appunto stanno passando una criticità, che è una criticità anche di tutto il sistema familiare. E noi siamo lì a mettere mano nel sistema con discrezione, con tatto, con attenzione, senza pregiudizi, recuperando le potenzialità genitoriali, perché da noi i ragazzi non stanno in eterno. Da noi un progetto può durare 6 mesi. Lavoriamo anche a stretto contatto con la famiglia, perché noi ci teniamo che quei ragazzi la sera ritornino a casa trovando 2 genitori che a loro volta hanno sottoscritto un patto con noi, che è un patto educativo. Cioè fare insieme possibilmente la stessa cosa, con ruoli diversi, perché il genitore è il genitore. Noi funzioniamo come supporti e il nostro compito è quello di non essere assolutamente necessari. Facciamo di tutto perché i ragazzi camminino sulle loro gambe, da soli, verso l'autonomia, e quando li dimettiamo, quando escono, noi siamo felici. Felici nel pensare che sono riusciti a costruire quelle condizioni che hanno permesso loro di tenere insieme anche la fragilità e di vivere quella fragilità anche come un valore, che è un valore che ha proprio permesso loro di rendersi forti proprio dentro quel contesto di fragilità.